Luci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti da Anna Marino a Voci di piccola impresa, idee anticrisi, idee che sono così semplici da essere disarmanti, ma che fanno risparmiare tempo e denaro, fanno del bene, aiutano a comportarsi meglio, con un vantaggio esteso a tutti, grazie a Internet. Yuppie! Basta forse questa esclamazione per descrivere che cos'è Yuppie. Startup in ambito social commerce, semplice e diretta, Yuppie aggrega tutte le offerte di oltre 30 siti di couponing. Se siamo confusi su dove e come possiamo risparmiare di più, il sito è una guida al consumatore. Un'esclamazione di gioia devono averla fatta anche Andrea Tamasi e Frank Wong, i fondatori trentenni di questa innovativa startup online da più di un anno, insieme a Franco Graziosi. In Italia è arrivato da circa un anno e mezzo il social shopping, le offerte comparate e le offerte scontate. Proprio con questo arrivo in Italia di tutta questa marea, io dico un oceano di offerte che quotidianamente impazzano sul web, l'utenza attenta al risparmio ha iniziato a sfruttare questa possibilità. Ecco, l'esclamazione Yuppie, quando è arrivata e che cos'è? Diciamo che il nome Yuppie è proprio l'espressione che ci spiega la gioia e il raggiungimento di un traguardo, come un bambino che grida Yuppie. In pratica, nel momento in cui noi riusciamo a acquistare un bene e un prodotto a un prezzo vantaggioso, quindi risparmiare, siamo felici, e questa è più o meno l'espressione che racchiude il nome del nostro progetto, della nostra startup. Come l'avete messa in piedi? Ecco, cosa avete fatto? In pratica non abbiamo fatto altro che creare un qualcosa che soddisfacesse un bisogno, cercare tra queste migliaia di offerte quotidiane l'offerta del momento del bisogno. Raccogliamo tutte le offerte che ci sono su internet, le riorganizziamo in maniera ordinata e rielaborandole tramite i nostri sistemi le offriamo agli utenti in maniera organizzata, sia dal punto di vista di categorie merceologiche sia dal punto di vista geografico. Quindi un utente può tramite Yuppie visualizzare in tempo reale l'offerta più vicina per il bene, per il prodotto, per il servizio che sta cercando. Come fa a segnalarvi le sue esigenze? Durante la registrazione al nostro sito inserisce, scegliendo le categorie merceologiche di suo interesse, quindi un utente che può avere un interesse in corsi per lingue, piuttosto che ha piacere a ricevere delle offerte per i ristoranti, offerte sushi, piuttosto che viaggi di un certo tipo, profila la sua, diciamo, i suoi interessi, e noi, quando ci sono offerte a seconda dei suoi interessi, le inviamo, altrimenti non disturbiamo, non inviando via mail le offerte. In questo modo l'utente è sempre informato su tutto il panorama delle offerte che ci sono su internet, perché pensiamo noi a integrare nuovi siti coupon o nuovi siti di commercio elettronico con offerte scontate o outlet che sono online. Pensiamo noi a raccoglierle e a comunicarle nel modo corretto ai nostri utenti. Ecco, adesso abbiamo parlato, diciamo, dell'idea e di come poter utilizzarla, però la strada per arrivarci è stata lunga quanto? E chi vi ha aiutato? C'è stato qualcuno che vi ha, diciamo, messo in mano le chiavi, almeno finanziarie, di questa idea? Dal giorno dell'idea alla messa online del progetto ci sono voluti 5-6 mesi. Abbiamo portato avanti il progetto autofinanziandoci. Quanto uno si deve, tra virgolette, tassare per mettere in piedi il proprio sogno? Fondamentalmente è il proprio lavoro, è la propria attività, il proprio tempo e le proprie capacità, che non vengono remunerate nel momento in cui uno mette in piedi un progetto simile. Ecco, gli sconti che vedete, proprio per parlare di soldoni, cioè quanto gli italiani risparmiano? Un utente può arrivare a risparmiare in media un 30% su beni o servizi di ricerca in funzione delle offerte che ci sono su internet. Last Minute Market è in apparenza così semplice da sembrare banale: recuperare ciò che è ancora utile e donarlo a chi ha bisogno. Nel mondo occidentale si spreca tanto cibo e si sapeva. In Italia i dati sono decisamente allarmanti. 4.000 tonnellate di avanzi ancora consumabili al giorno, 27 kg di cibo a testa, con uno spreco di 584 euro. Da Bologna però arriva Last Minute Market, 283 tonnellate di rifiuti salvate che sono servite ad alimentare 2.206 persone. In un anno recupera prodotti alimentari invenduti ma ancora buoni. Ha ideato e poi sviluppato il progetto con i suoi studenti Andrea Segre, professore e preside della Facoltà di Agraria all'Università di Bologna. E lui, il presidente di Last Minute Market, al microfono di Paolo Zinabia. Last Minute Market è uno spin-off, cioè una SRL dell'Università di Bologna. Nasce da un progetto di ricerca a fine anni 90 che si interrogava se gli sprechi alimentari in particolare erano recuperabili ed eventualmente a chi potevano essere dati. Nasce come ricerca teorica, poi capiamo che l'offerta potenziale di eccedenza è enorme, così come anche la domanda potenziale. Costituiamo, anzi i miei studenti che nel frattempo si laureano, costituiscono una piccola cooperativa e lanciano i primi progetti di recupero. Quando capiamo che in realtà ciò che serve è un servizio di consulenza per le imprese nei vari anelli della filiera agroalimentare, dal campo alla tavola, insomma, quindi dalle imprese agricole fino alla grande distribuzione, alla ristorazione, passando per l'industria, hanno bisogno in realtà di ridurre le eccedenze, le perdite, le inefficienze, perché queste generano costi e anche esternalità negative dal punto di vista ambientale. Costruiamo, questo nel 2007, una SRL dell'università, quindi declinando dal punto di vista operativo quello che era un percorso progettuale. È adesso una realtà che è estesa a livello nazionale in 44 progetti in altrettante città e si sta estendendo all'estero e ha promosso campagne come quella presentata a Trieste, Carta per l'amministrazione a spreco zero, che si pongono l'obiettivo di ridurre gli sprechi, di prevenirli. Noi siamo sommersi dei rifiuti, non riusciamo più a gestirli, va bene recuperarli se sono ancora buone e darli a chi ha bisogno, promuovendo una straordinaria economia del dono, un'economia di relazione, ma il fine deve essere chiaro: ridurre a zero gli sprechi. E allora abbiamo fatto questo marchio che si chiama Spreco Zero, per cui tutta la nostra expertise nella riduzione degli sprechi di cibo, acqua, energia, mobilità, comunicazione e naturalmente rifiuti vengono messi a sistema a beneficio delle istituzioni, delle imprese, dei festival. La vediamo come frontiera di applicazione di questa, io mi verrebbe da dire, visione, insomma, che abbiamo di una società senza sprechi. Un'applicazione che permette al conducente di maturare uno sconto carburante pari a mezzo centesimo di euro per ogni chilometro percorso. Per esempio, maturato uno sconto pari a 5 euro, si può beneficiare all'acquisto di almeno 10 euro di carburante. In sostanza, si paga 10 e si ottiene 15, ma si risparmia anche in assicurazione e manutenzione. Non sono utopie, si stanno realizzando grazie a un'idea di startup Elliot, sviluppata nella scorsa edizione del Master in Startup di progetti innovativi del Sole 24 Ore. E siamo alle porte dell'edizione di quest'anno, che sarà dal 15 al 20 aprile 2013. Ci si può iscrivere fino all'ultimo, informazioni sul sito www.formazione.ilsole24ore.com. Ecco come ha aiutato a trasformare la sua idea in fatturato Marco Tampieri, fondatore di Elliot. Eravamo praticamente al master del Sole 24 Ore, appunto, in effetti è venuta fuori questa idea. Eravamo un gruppo di persone, ognuno presentava la sua al gruppo e poi veniva votata. Nel corso dello sviluppo l'abbiamo pivotata in tante declinazioni e lavorandoci ci è bastata una parola: portatela più verso la mobilità, questa idea. Vediamo cosa succede. Lì si è accesa la lampadina. Siamo arrivati poi alla declinazione che porta oggi poi avanti il progetto, ecco. In che cosa consiste questa idea, per spiegare appunto agli ascoltatori che cos'è che vi è venuto in mente? Certo, siamo partiti dal concetto che ormai siamo totalmente inseparabili dagli smartphone e che all'interno hanno una tecnologia che permette in qualche modo di monitorare dei nostri comportamenti all'interno della vita quotidiana. Bene, noi volevamo effettivamente monitorare un comportamento di guida e dargli una sorta di ranking, un punteggio, accelerazioni, decelerazioni, con un comportamento di guida comunque sostenibile. E a fronte di questa cosa noi riconoscevamo in effetti un punteggio e potenzialmente degli sconti carburante, e chiaramente mappando un comportamento, quindi la capacità del pilota in effetti di sviluppare una guida sostenibile ed educata, socialmente sostenibile, ecco. Ecco, oltre alle buone intenzioni c'è anche un gran risparmio, quindi questa idea è nata sicuramente perché è praticabile, visto che tutti abbiamo gli smartphone. Certo. Ma diciamo va avanti perché la gente ha anche bisogno di risparmiare, e questa mappatura serve anche all'assicurazione per dire chi è bravo e chi no, ecco. Certo, l'idea è effettivamente proprio quella, anziché spostare il concetto strettamente commerciale dell'assicurazione a fronte di un punto interrogativo, quindi il cliente, il potenziale cliente di assicurazione, c'è in effetti un criterio oggettivo sul quale fare una valutazione del guidatore. Quindi si innesca quella classica sinergia per cui, ok, io sono portato a guidare meglio in virtù del fatto che comunque chi ha in mano i miei dati, sempre chiaramente se l'utente vuole poi distribuirli per le finalità, insomma, del progetto, può dare una valutazione e di conseguenza effettivamente poi abbattere il canone dell'assicurazione. Se si è portati ad avere una guida più corretta, quindi fatta di un atteggiamento lineare alla condotta del veicolo, ovviamente questo comporta dei risparmi di carburante in sé e di conseguenza anche la minor possibilità di fare un incidente o comunque di essere sottoposti a un rischio durante la circolazione. E per le assicurazioni? C'è chiaramente dall'altra parte l'incentivo, hanno di fronte comunque un cliente che è incentivato dal meccanismo a guidare in maniera più educata, se vuoi, o socialmente più corretta. E sanno anche verso chi direzionare gli sconti. Assolutamente, hanno di fronte il cliente, certo non fisicamente, ma quantomeno hanno un riferimento del loro potenziale cliente. Chi ha aiutato voi? Allora, noi in questo momento siamo autosostenuti. Noi siamo in una fase di value proposition perché di fatto il nostro cliente finale sono le società petrolifere, che in qualche modo possono avere un interesse anche dal punto di vista ambientale nel sostenere questo progetto, tramite effettivamente io più guido bene e più ti riconosco degli sconti carburante, e chiaramente le assicurazioni, come dicevamo prima. Allora, adesso risparmiate. Queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci, Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmi Radio 24, 24 in numero, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog è su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino.